E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In Italia ogni giorno 4.000 tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura. Una campagna di sensibilizzazione cerca ora di invertire la rotta, premiando le iniziative antispreco. Nella cultura contadina, lasciare un frutto sulla pianta al momento del raccolto era considerato un segno di empatia verso la natura, un sottolineare le radici comuni. La modernità ha trasformato questo atto simbolico in uno spreco colossale. In Italia, tra il momento in cui pomodori e zucchine abbandonano i campi e quello in cui finiscono nel nostro piatto, si butta una quantità di cibo sufficiente a sfamare tutti gli spagnoli. Non solo. Si parla di 4.000 tonnellate di alimenti acquistati dagli italiani e buttati in discarica ogni giorno, 6 milioni in un anno. E in questo impegno dissipatorio siamo in buona compagnia. In Gran Bretagna si gettano ogni anno nella spazzatura 6,7 milioni di tonnellate di cibo, ancora perfettamente utilizzabile, e 10 miliardi di sterline. In Svezia ogni famiglia butta in media il 25% degli alimenti acquistati. Negli Stati Uniti si arriva al 40%. Numeri impressionanti e destinati a salire, visto che dal 1974 nel mondo lo spreco alimentare è aumentato del 50% e continua a crescere. Per invertire questo trend è partita la campagna Un anno contro lo spreco 2010, ideata da Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, e promossa da Last Minute Market, con il patrocinio del Parlamento europeo. Gli organizzatori, con il sostegno di Eni e Telecom, premieranno le buone pratiche e organizzeranno a Bruxelles e a Bologna pranzi contro lo spreco basati su un menù prodotto con alimenti di recupero. Cibi perfetti sotto il profilo sanitario e organolettico, ma in origine destinati alla discarica. E qualcosa si sta già muovendo in direzione di una correzione di rotta. Da uno degli ospedali di Bologna si recuperano ogni giorno 30 pasti pronti presso la mensa, per un valore complessivo di oltre 35.000 euro all'anno. A Ferrara si recuperano presso le farmacie comunali farmaci da banco per 11.300 euro all'anno. A Verona, 8 mense scolastiche recuperano 8 tonnellate all'anno di prodotto cotto, che corrispondono a circa 15.000 pasti. Vogliamo moltiplicare questi casi positivi in tutta Italia, propone Segre. Gli sprechi vengono spesso visti a senso unico, guardando solo attraverso la lente etica, ma non è dando ai poveri gli avanzi dei ricchi che si può pensare di risolvere squilibri sociali che vanno affrontati contro altri strumenti. Lo spreco alimentare è innanzitutto il fallimento del mercato, la negazione della logica dell'efficienza senza la quale l'impatto dell'esistenza umana è destinato a diventare insostenibile. In Italia buttiamo una quantità di cibo sufficiente a sfamare 3/4 della popolazione. È una perversione del sistema produttivo, creata da meccanismi che incentivano gli sprechi perché non riconoscono il valore del danno ambientale prodotto e il suo costo per la collettività. Ogni tonnellata di rifiuti alimentari genera 4,2 tonnellate di CO2. Uno spreco che riguarda tutte le fasi della filiera alimentare. Nei nostri campi rimane a marcire la stessa quantità di frutta e verdura che consumiamo. La distribuzione al dettaglio butta il cibo sufficiente a fornire 3 pasti al giorno agli abitanti di Genova. L'industria agroalimentare produce sprechi che alimenterebbero il Veneto per un anno. Oltre a intervenire nel momento della raccolta e della lavorazione, bisogna riorganizzare anche la distribuzione. Ad esempio, suggerisce Segre, quando noi prendiamo uno yogurt da uno scaffale del supermercato e vediamo che scade dopo un paio di giorni, lo rimettiamo a posto e ne cerchiamo un altro che dura di più. Così finisce che quel vasetto di yogurt, ancora buono, si trasforma in rifiuto, con un danno economico per tutti, perché il costo dello spreco viene caricato sugli altri yogurt. Perché allora non venderlo con uno sconto? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonio Cianciullo Troppo cibo nella spazzatura, le mosse antispreco delle città, da Repubblica del 12 luglio. Avere una casa provvista di sistemi che garantiscano il massimo risparmio energetico comporta un investimento iniziale, ma alla fine produce notevoli vantaggi. Immaginate una casa dalla temperatura sempre ideale, mai calda in estate e mai fredda in inverno. Una casa che non spreca energia, anzi la risparmia in maniera oculata. Un'utopia? Un privilegio per pochi? Non è più così, perché ciascuno può fare qualcosa per ridurre le bollette e vivere al meglio negli spazi domestici. Le azioni possibili sono di due tipi. La prima riguarda gli interventi strutturali, la seconda gli impianti. Questi investimenti garantiscono risparmi interessanti senza sacrifici, senza modificare troppo le abitudini di utilizzo dell'appartamento, riassume Giuseppe Tommassetti, vicepresidente della FIRE, la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia. Una buona opzione è cominciare dalle pareti esterne, rivestendole con materiali isolanti. È il cosiddetto cappotto, che risulta più semplice, o almeno meno costoso, in nuove costruzioni o ristrutturazioni della facciata, che già richiedono ponteggi. Esempio, per una villa unifamiliare di due piani di 200 metri quadrati, il costo è sui 6.800 euro, impalcature escluse, e le dispersioni si abbassano di un terzo. In alternativa, il materiale isolante può essere inserito nelle intercapedini, se vuote, o installando pannelli sulle pareti interne. Quest'ultima è una soluzione interessante perché è meno cara, indipendentemente dai capricci degli inquilini, e accresce lo spessore dei muri di soli 7 cm, spiega Alessandro Panzeri, che si occupa di ricerca e sviluppo dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico. Isolamento che può essere esteso ai tetti e alle coperture, riducendo le dispersioni di un ulteriore 20%, oppure al soffitto di una cantina, di un box o di un porticato. Passando agli impianti, meglio non considerare l'eolico, difficile da applicare con vantaggi a singoli edifici, sostiene Tommasetti. Più giustificato un impianto solare termico per produrre acqua calda. Ha un buon ritorno economico che si ammortizza in fretta. È comunque più adatto ai nuovi immobili, perché richiede interventi rilevanti di idraulica. Se il fotovoltaico che crea energia elettrica per uso domestico ancora un po' fatica a diffondersi, meglio va sul fronte delle caldaie. Quelle a condensazione sono parecchio richieste, perché hanno ottime prestazioni, assicurando fino a 20 punti di rendimento in più rispetto a quelle tradizionali. In casa la differenza la fanno anche i comportamenti razionali di ciascuna famiglia. In questo solco si inserisce la domotica, il cui scopo è appunto ottimizzare la resa di apparecchiature e impianti. La spinta decisiva si è avuta con l'introduzione delle bollette a fasce orarie. Programmare l'avvio della lavatrice o della lavastoviglie ha finalmente senso. La semplificazione tecnologica fa il resto. Non serve più essere ingegneri informatici per impostare anche a distanza illuminazione, riscaldamento e condizionamento. I pannelli di controllo sono touch e con menu a icone come un telefonino. I sensori rilevano da soli la nostra presenza, impostando la modalità energy saving o spegnendo le luci all'occorrenza. Una casa efficiente, oltre a essere piacevole da abitare, vale molto di più. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Marco Morello. Casa risparmiosa? Mettiamole il cappotto. Da Panorama del 15 luglio. Il dialogo tra arabi e israeliani è possibile? È solo una questione di parole, rivela David Megnagy nel suo libro Le sfide di Israele. Un saggio, inteso come scritto di carattere critico, a volte può persino commuovere, emozionare fino alle lacrime con la lucida discettazione di torti e ragioni, l'analisi della malattia delle parole che va curata prima che si trasformi in apocalisse. Diagnosi e terapia, formulate in Le sfide di Israele, Marsilio, con un'umanità che turba perché non fa sconti a nessuno, sono di David Megnagy, docente di psicologia clinica a Roma 3. Psicoanalista che porta sulle spalle un bagaglio onirico fatto di nostalgia per i canti d'amore e liturgici della giovinezza, per quel lontano passare dall'ebraico all'arabo, per la propria Tripoli perduta. La penna delicata e acuminata del suo punto di vista sembra averne sondato la carne e trafitto l'anima in nome della capacità di immaginazione sognante che vuole trasmettere. Dice che, a dispetto delle vicende dolorose da cui sono divisi, ebrei e musulmani, arabi e israeliani, non sono condannati a essere ostili per sempre. C'è e deve esserci una via d'uscita, e se anche questa possibilità non è nell'immediato, non bisogna per questo negarla al futuro. Perché mai arabi e israeliani non dovrebbero un giorno tornare a parlarsi? E perché un palestinese non dovrebbe potersi specchiare nella storia degli ebrei di origine afroasiatica? perché il nipote di un sopravvissuto alla Shoah non dovrebbe aprire il cuore di fronte al dramma del nipote dei profughi palestinesi del 1948. Le parole dei poeti sono azioni, scriveva Freud a Thomas Mann, citazione con cui Megnagy apre il suo lavoro. Con le parole non si gioca, non si può, è troppo pericoloso. Il momento della verità, prima o poi, arriva. Come con il boicottaggio di Israele alla Fiera del Libro di Parigi e di Torino, a quel punto per i fraintendimenti non c'è più posto. Chi boicotta gli scrittori israeliani varca il confine che separa la critica legittima contro la politica di un governo dall'antisemitismo. Anche perché lo scrittore ha molto da dire alla politica e può farlo in quanto scrittore solo se rinuncia ad agire politicamente. Così, in assenza di interlocutori politici credibili, David Grossman non può andare oltre un appello disperato dai toni religiosi che rivela l'impotenza della politica. Attenti alle parole, dunque. A essere in discussione sono le forme talora assunte dalla critica, le figure e la retorica del discorso, i fantasmi sottesi. Insomma, il futuro di quel rispetto reciproco che i più si ostinano a chiamare pace. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Iesurum, Quelle sfide delle parole, dal settimanale 7 del 15 luglio.